7. Ascolta e controlla. 1. Dove sono gli zii? Gli zii sono in ufficio. 2. Gli scrittori nel tuo paese sono molti? Nel mio paese gli scrittori sono pochi. 3. Perché gli studenti sono assenti? Gli studenti sono assenti perché stanno male. 4. Quali sono gli strumenti che suoni? Gli strumenti che suono sono la chitarra e il piano. 5. Come sono gli spaghetti? Gli spaghetti sono molto buoni. 6. Dove sono gli sci vecchi? Gli sci vecchi sono in garage. 7. Capisci gli sforzi che faccio? Sì, comprendo tutti gli sforzi che fai. 8. Gli sbagli che facciamo sono gravi? Sì. Gli sbagli che fate sono molto gravi. 9. Quali sono gli sport che pratichi? Gli sport che pratico sono il tennis e il ping pong. 10. Gli zaini sono in macchina? No, gli zaini sono in camera.